Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giulio at RadioRockFM.com, MySpace.com/eclettica. Sono questi due indirizzi da tenere in mente, uno per iscrivervi alla lista nera di Eclettica, a meno che non abbiate voglia di iscrivermi direttamente, imbastire così subito un dialogo. Se però volete in cambio anche automaticamente le playlist alla lista nera, dovete per forza iscrivervi. Per quanto riguarda invece lo spazio di MySpace, di sopra si parla un po' di fronte a tutti, si discute di diversi argomenti, magari che vengono lanciati in mailing list e che poi lì trovano possibilità di dibattito aperto, come quello della possibile classifica di fine anno delle migliori canzoni degli ultimi 12 mesi di Eclettica, con cui costruire anche l'Eclettica finale del 2006. Vedremo come va anche con il vostro contributo. E l'indirizzo di mail, tenetelo presente, oltre che per il concerto di Marco Fabi alla Salumeria della Musica dell'11 dicembre, per la possibilità di andare a vedere gratis Miss Kenichi come chiunque altro il 13 dicembre al Sintetica di Firenze dalle parti della stazione Santa Maria a Novella, ma anche, come già abbiamo fatto con gli amici dell'Audio Globe per Cyan & Ben, anche con tre copie di Collision Time, non tre copie a testa, o tre copie a disposizione, ok? I primi tre che scrivono potranno ritirarle. Da qualche giorno che sto lanciando questo appello, ancora non sono andato ad aprire la casella di posta, quindi non so se abbia senso lanciarlo anche nella terza parte di Eclettica di questa settimana, ma tant'è, ormai già l'ho fatto. Il mio nome, per la legge, è Alexander Perkov, ma tutti i miei amici mi chiamano Alex, perché è una versione del nome più flaccida da pronunciare. Mia madre mi chiama Alexi, basta di ammorbarmi, perché sempre l'ammorbo. Se volete sapere perché sempre l'ammorbo, è perché sempre sono in altri posti con amici e seminando tanta moneta, eseguendo così tante cose che possono ammorbare mia madre. Mio padre mi chiama Shapka, per il cappello di pelliccia che calzavo in testa anche nei mesi d'estate. Poi ha smesso di dirmi così perché gli ho ordinato di smettere di dire così. Mi sembrava un nome bambinoso e io invece mi sono sempre pensato un uomo molto potente e inseminativo. Questo è l'incipit di Ogni cosa illuminata di Jonathan Safran Foer. Answer.

devo essere sincero con voi. Stavo per metterlo via, ma poi ho detto, ma una botta gliela potrei ancora dare, no? I ritmi in levare associati a Ok Computer dei Radiohead, nello specifico questo poi era un brano che dovreste aver riconosciuto da soli, per questo progetto che proviene dalla città di New York, che già aveva messo mano allo stesso modo qualche anno fa anche ai Pink Floyd. Ora invece ritorniamo, dopo qualche mese, grazie ad un nuovo album che esce per Drag City, all'arpa di Joanna Newsom, un album dal titolo Ease, dal quale noi ci ascoltiamo una delle 5 tracce che sono contenute al suo interno. Pensate, ci sono 5 tracce, ma ci sono 55 minuti di musica, per esempio quella che vi state per ascoltare, sperando che questo non contribuisca allo zapping radiofonico, è di 7 minuti. Un album in cui è presente Steve Albini, che ha dato una mano alla produzione, alla registrazione e poi all'arrangiamento. Pensate, c'è una leggenda, c'è Van Dyke Parks, cercatelo con Google nel caso non sappiate chi è. Joanna Newsom, questa è Cause Me A. some light of evening. Help me, cause me, oh, I'm grieving. In all those lonely nights down by the river, brought me bread and water, watering. But though I tried so hard, my little darling, I couldn't keep the night from coming in. In all those lonely nights down by the river, brought me bread and water in a kith and a can. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming. Scagnozzo strafatto di crack per fare un lavoretto in questo cesso, con un paio di pinze e una buona saldatrice. Hai sentito quello che ho detto, pezzo di merda? Con te non ho finito neanche per il cazzo, una cura medievale per il tuo culo. dancers, this for the wedding blues. One's for the fairies, two for the princess, three's for the fun friends, call me little cancers. Ma quanto è bella questa canzone! Io l'ho urlata, per fortuna che il cursore del microfono era giù, mi sono speso in tutto, nel ritornello e poi anche nelle altre parti del pezzo. Essendo stonato, è meglio evitare di alzare il livello del cursore. Giulio Caperdoni, che è arrivato alla chiusura della terza parte di Eclettica di questa settimana, dopo i My Scars che ci siamo ascoltati con questo estratto dal loro I'm the Creature, dal titolo Introducing the Liquid Pets. Ci spostiamo dall'Italia al Tennessee, a Nashville, da cui viene Courtney Tidwell, che chiude la terza parte con Missing Link. Eclettica, fine della terza parte.